la minore di tutte le sorelle. Il re si stava avvicinando incuriosito dal brusio intervallato da improvvisi cori, esortazioni e applausi. Accostati alla parete, avvisò la regina. Il re fece appena in tempo a seguire l'avvertimento che venne sfiorato da una grossa palla di fuoco che avevo appena lanciato. Ci fu la ola, tutti applaudirono, il re si guardò intorno smarrito. «Che si sta inventando?» chiese alla regina guardando me. «Sta provando un nuovo gioco», gli rispose la regina. Si trattava di un gioco che si svolgeva a più livelli, incrementando il punteggio si saliva di livello e salendo di livello cambiava l'ambientazione, si passava da un galeone corsaro, ad una pista per pattinaggio su ghiaccio, e molte altre ambientazioni. In quel momento mi trovavo su campo simile al campo da golf, ma sviluppato su colline molto ripide che, a seconda delle difficoltà della partita, si muovevano ondeggiando repentinamente. Il gioco era molto realistico perché ricreavo davvero l'ambientazione. Così anche gli spettatori si ritrovavano di volta in volta in luoghi diversi, sorpresi e sconquassati come dalle vertigini. Si stavano divertendo tutti. «A chi vuole inviare questa calamità?» chiese il re alla regina indicando me. «Ai terrestri», rispose la regina. «Facciamo anche che no?» sorrise il re. «Ma come no?» virgola esclamai deluso fermandomi sulla cima della collina. «Li vuoi far rimbambire del tutto?» rise lui. «Ma no», sbuffai puntando i piedi. «Spegni tutto», ridacchiò il re facendo cenno di scendere dalla collina da cui stavo giocando. Il re è così, sorride, ridacchia, è simpatico, amorevole, ma le sue sentenze sono definitive. «Una piccola modifica?» supplicai. «Ecco bravo, modificalo bene», rispose. «È punto punto punto però», sbuffai scendendo dalla collina che stava scomparendo. Andai dalla regina e inizia subito a proporre le modifiche, supportato da tutti gli altri che sostenevano le mie idee. In quel guazzabuglio di conversazioni, Gabriel si avvicinò al re. Dispiegò l'origami che fece comparire sulla sua mano così che il re potesse leggere la nuova lettera di André. Erara nuovamente litigato con la sua fidanzata. Erar mi ha detto che Franoise l'ha trattato da pazzo visionario, che decidesse di fare l'uomo invece di perdere tempo. In tutta sincerità non mi pare che Gerard sia un perdigiorno, anzi è molto serio, piuttosto sensibile, insegue e coltiva i suoi ideali, non mi pare così male. Proprio Gerard mi ha fatto incontrare May. Gerard aveva conosciuto May durante una gita con Franoise alle Conche, e si era intenerito. La sera stessa del suo ritorno dalla gita mi disse che dovevamo aiutarla assolutamente. Così siamo partiti con il camper e siamo andati a trovarla. Trovammo May dove Gerard l'aveva sempre vista, molto anziana, nascosta in un rifugio di fortuna di coperte, stracci e cartoni, costruito a ridosso del forte sulla penisola di Kermorvan, isolata e in balie delle intemperie tra il mare e la campagna. In paese la conoscevano tutti ma nessuno sapeva davvero chi fosse, era talmente solitaria e silenziosa che tolleravano la sua presenza senza farci troppo caso. Nei due giorni che siamo stati con lei non ha mai parlato. Si nascondeva sotto le coperte con lo sguardo basso, si dondolava per riscaldarsi e nient'altro. Le dicemmo che poteva venire con noi, che le avremmo potuto trovare un alloggio, dei pasti caldi, vestiti puliti, che potevamo aiutarla, ma lei chiudeva gli occhi e scuoteva la testa. Sembrava che non potessimo fare nulla per lei, allora le tenevamo compagnia suonando la chitarra e cantando delle canzoni, sembrava le piacesse la musica. La terza sera che passammo con lei era agitata, ma se provavamo ad aiutarla ci spingeva via. Poi con una mossa brusca prese un quaderno nascosto tra gli stracci su cui posava la testa e lo lanciò via. Gerard lo prese e sfogliandolo scoprì che era pieno di disegni, le domandò se li avesse fatti lei ma May chiuse gli occhi e non rispose. Gerard mi mostrò una pagina con delle frasi, allora io le lessi ad alta voce sperando di ricavarne almeno una reazione. Xantian ha deciso di trasferirsi su Ica. Ica, un grande pianeta ai confini con il sistema solare. Per occupare definitivamente tutto il pianeta e farne la sua nuova casa, Xantian ha fatto scomparire il pianeta da qualsiasi strumento di navigazione. Agli occhi di chiunque Ica non esiste. Ha distrutto tutto. La tecnologia non esiste più. La medicina non esiste più. Non esiste più nessun mezzo di trasporto. Nessun mezzo di comunicazione. Gli edifici sono stati rasi al suolo, distrutti o incendiati. Nessun mezzo di sussistenza. Non c'è più acqua. Sorgenti, laghi, mari sono stati avvelenati o prosciugati. Sono state diffuse malattie mortali. Campi minati ovunque. Dal Principato di Falbas arrivano acqua e medicinali. Chi non riuscirà a fuggire è destinato ad essere annientato. Le chiesi se fossero appunti per un racconto fantasy, ma non rispose. Gerard si convinse che tutto quello che era descritto in quelle righe fosse vero, e che forse May era stata su Ica, o addirittura fosse un'abitante originaria di Ica. Allora io le chiesi cosa significasse il suo nome, mi rispose la minore di tutte le sorelle e continuò a parlare. La mia vita è stata come la luce di una candela, fioca e tiepida. Non c'è mai stata abbastanza luce, non c'è mai stato abbastanza calore. Spero che la morte sia più gentile di quanto la vita sia stata con me. Io e Gerard ci guardammo, Gerard era commosso. Io presi la chitarra e le chiesi se voleva sentire ancora un po' di musica, ma lei annuì. Le tenemmo compagnia tutta la notte, io e Gerard cantavamo e suonavamo, lei si assopiva e si risvegliava, si assopiva, si risvegliava, si assopiva, si risvegliava. Finché non si risvegliò più. Gerard non voleva accettare che fosse morta. La scuoteva, la toccava. Ha dovuto abbracciarla per realizzare che era morta davvero. Nei giorni a seguire ci siamo occupati noi di organizzare un funerale laico e una sepoltura per regalarle almeno il diritto di essere ricordata. Gerard conserva ancora il quaderno di May. Non c'è più tempo, disse Gabriela Re. Il re era pensieroso ma non rispose. Michael si avvicinò a loro. Che vogliamo fare? Intervenne durissimo verso il re. Il re rimase muto, restituì la lettera di Andrea Gabrielle e si allontanò serio. Gabrielle e Michael si guardarono perplessi. Non parla. Quando deciderà a muoversi? Brontolò Michael guardando il re.